quando si imputa ai giovani di essere poco attivi nella ricerca di nuove forme di lavoro, nella creazione di nuove imprese, si dice qualcosa di veramente ingiusto. Io ho studenti ed ex studenti che fanno di tutto, fanno gli spazzini, puliscono le scale nei palazzi, mi pare che veramente non gli si possa imputare assolutamente nulla. Ci sarà anche qualche fannullone, ma non è assolutamente la situazione complessiva. Oggi che abbiamo saputo di questa esplosione, in qualche modo non possiamo meravigliarci. Io mi meravigliavo del contrario, del fatto che Wall Street fosse occupata dai giovani, che le piazze di Madrid lo fossero anche, e che in Italia, dove la situazione è molto peggiore, invece i giovani erano silenti. E io spero che quello che facciano sia in qualche modo costruttivo e che comunque chi governa ne tragga l'insegnamento per intervenire.